C'era una volta una ragazza comune, con comuni pensieri e comuni vestiti, che viveva in un luogo bellissimo, dove niente di male poteva accadere. Quando in quella giornata la vita scorre lenta e tranquilla, io provo a far volare lontano i sogni oltre i cancelli della mia villa. E nulla mi fa paura, fuori che ciò che non conosco, un desiderio di infinito di cosa ci sarà. Dolce illusione dell'essere ragazzi, applicare a tutto il mondo la piccola realtà della tua città, un mondo sicuro e tranquillo dove niente di male ti può accadere. Ma Susie non sa che le bocche di scarico dell'immondizia, della quale ogni villa della città incantata è dotata, portano ad un'enorme discarica fumante e maleodorante. Là, un'altra città si è formata con gli anni, la città dei reietti, degli incapaci, delle teste malate, degli anarchici, di tutti quelli, in poche parole, che per demeriti personali o scarse finanze non si sono saputi permettere un posto al sole nella città incantata. Ma nella notte, quando le bocche di scarico rallentano la loro pazza foga, di nascosto a tutti un ragazzo è riuscito a risalire dal tubo, e indovinate, fino alla stanza di chi? Ruberò due scarpe nuove per attraversare il bosco e sopra il grande monte, da solo lì con me, dirò di questo sporco mondo, io sono il re.